si yo, y en el lento divagar, una música brutal encendió nuestra pasión. Melog 2.0 2.0 di Gianluca Nicoletti. Ieri sera ho avuto una cena di lavoro. Verso le 2 di notte, al terzo quarto margherita, con i miei commensali, amici, amiche, età media 40 anni, ero il più vecchio di tutti, quando mi sono accorto che il gioco della serata era sniffare le commensali con una cannuccia e sentirne l'odore, mi sono domandato, ma cavolo, io ho 54 anni. E mi sono posto questa funerea domanda. Ma quando è che ci si accorge di diventare vecchi? Perché io non me ne accorgo. Non me ne sono ancora accorto. L'ho domandato questa mattina su Facebook e nel giro di pochi minuti ho già 20-30 risposte. E mi dicono le cose più disparate. E quando si rompono le palle al prossimo, quando si è trattati da vecchi, cioè buttati via come cose vecchie. Per fortuna oggi ci sono gli antiquari, mi scrive qualcun altro. Roberto dice quando ci si pone questa domanda. Quando i calciatori della tua squadra preferita sono nati dopo di te. Gli uomini se ne accorgono, le donne no. Un archeologo è il miglior marito di una donna che una donna possa avere. Lei diventa vecchia e più lui si interessa a lei. E poi vanno avanti con queste facezze. Poi in realtà il problema c'è. Oggi vedo un pezzo su Libero e vedo che in Italia ci sono oltre 12.000 centenari. Ma pensavo che fosse una rarità. 12.000 centenari, immaginati tutti in fila. Se fanno la festa nazionale del centenario, c'è per farne un grande raduno. E poi andando avanti e osservando dati e statistiche sono ancora più terrificato. In Italia gli anziani, cioè coloro che per convenzione hanno superato i 65 anni d'età, quindi ho ancora 10 anni per diventare anziano, ammontano circa il 20% del totale degli italiani. Secondo gli ultimi calcoli, nel 2050 la percentuale dei vecchi sarà attorno al 34%, quindi un italiano su tre sarà anziano. E io sono già decrepito, però vedete, è qualcosa che ormai fa parte della nostra realtà. Però nessuno si sente vecchio, nessuno si sente anziano, anzi quello della orrida vecchiezza, come appunto veniva definita nel mondo antico, in cui il margine estremo dell'età adulta, età matura, era una trentina d'anni, per Aristotele 35 anni, dopo 35 anni già si cominciava ad essere vecchi. Beh, noi invece stiamo diventando un paese molto numeroso, molto multietnico, ma sempre più vecchio. Leggo su un pezzo, su un'inchiesta fatta da Repubblica qualche tempo fa, noi abbiamo bisogno proprio di questo, di assistenza da parte di badanti straniere. In Italia lavorano 650.000 medici e infermieri di fronte a 700.000 badanti. Pensate, 700.000 badanti, significa che c'è un esercito di dentiere, di cateteri, di pannoloni, di mani tremolanti, che fanno parte anche della mia natura, non lo dico con disprezzo e con distacco. Beh, la domanda è questa, non vi voglio angustiare, oggi è una bella giornata di sole, quindi è con allegria e con ancora i segni indelebili di Suor Margherita che mi ha aggredito stanotte, 800240024, come, quando e perché ci si accorge di diventare vecchi. L'Istat prevede che nel 2030 ci saranno più di 15 milioni di italiani con oltre 65 anni. Già oggi ce ne sono più di 12 milioni. Quindi, ancora di più, sarà un buon investimento per occuparsi dei bisogni di costoro. Medici e specialisti dicono la loro sull'antico problema della gioventù che fugge. Radicali liberi, oli essenziali, antiossidanti in abbondanza, attività stimolanti, confronto intellettuale, seguire convegni e coltivare rose, anche se a ben vedere di solito al centro anziani si può scegliere solo tra le bocce e lo scopone scientifico. Capisco che il problema è doloroso da affrontare, capisco, mi sta scrivendo in questo momento un amico sempre su Facebook, ho 35 anni, e guardando i genitori, dei compagni di classe, dei miei bambini all'asilo, mi rendo conto che io sono vecchio, rispetto a loro sono più giovani di me. Devo dire che è un metro di paragone terrificante quello degli altri genitori quando si hanno dei figli a scuola. Fanno parte sempre di una categoria indefinibile di esseri umani con i quali ci si sente radicalmente e visceralmente conto di non avere nulla in comune, ma bisogna tuttavia socializzare. 800240024, non usciamo dal tema, come, quando e perché e per quale ragione e come rispondiamo alla domanda qual è il momento in cui ci alziamo la mattina e ci accorgiamo di essere diventati vecchi. oggi sono a Torino e ho visto veramente un tripudio di pensionati a guardare i lavori delle varie piazze che stanno facendo eccetera, ma in quantità veramente inusitata per le mie abitudini, e mi sono sentito un po' come loro quando parlate di internet, di Facebook eccetera. Io ci provo a capirci qualcosa, però accendo il computer e mi si spegne la testa, mi sento un pensionato, eppure tutto sommato non sono poi così vecchio. Vorrei solo dirti che si è vecchi quando non sei più capace di fare progetti. Ciao! Secondo me la vecchiaia e la giovinezza sono due realtà identiche. La giovinezza esprime energia per crescere, la vecchiaia esprime energia per non morire. Bello da raccontare, difficile da definire, soprattutto guardando la propria pelle, guardando le proprie azioni, guardando le proprie reazioni, dice un'ascoltatrice, ci se ne accorge quando corpo e mente non viaggiano più alla stessa velocità. Ma a me questo tipo di sensazione ce l'ho da quando ho l'età della ragione, non credo sia questo il sintomo. Qual è il sintomo della vecchiaia? Qualcuno suggerisce la compagnia di uno o più cani, senza considerare quanto possa incidere nel budget di un medio pensionato il loro mantenimento, per non dire quanto il quadrupede sia spesso causa di rotture di femori e rotule per chi, con osteoporosi e mano tremula, stia dall'altra parte del guinzaglio. Il vero problema è che appare ancora collettivamente irrisolta la questione della fatalità dell'invecchiare. Nessuno ambisce a sconfiggere la morte, non si ha questa illusione, ma ci si accontenta di congelare l'imbruttimento senile del corpo. I segni dell'invecchiamento vanno nascosti come se si trattasse di una di quelle malattie che gettano ignominia su chi le patisca, come in altre epoche fu per la lue, la gonorrea, la peste e simili. Devo dire che in effetti oggi è un po' difficile pronunciare soltanto la parola vecchio. Io stesso quando la dico sento una sorta di moto di trattenimento alle fasce muscolari che mi permettono la fonazione. Perché? Perché sembra una parola contro natura. Non esistono più strumenti di piacevole e meditata elaborazione del fatto che si debba invecchiare. I vecchi oggi sono trascinati o addirittura obbligati a essere giovani perché tutto il sistema sociale, politico, economico, culturale soprattutto, è progettato per i giovani. Secondo me è diventare vecchi quando si comincia a insegnare ai giovani attraverso la propria esperienza. Però poi ripensandoci penso che anche che se poi questi giovani ti ascoltano e sono interessati ti senti anche un pochettino più giovane e ti senti più vicino al loro. Sono Luigi e ho 73 anni, vorrei dire una cosa sulla vecchiaia: uno diventa vecchio quando non ha più sogni. Io continuo a lavorare e cerco di avere dei sogni. (800) 24 0024, aspetto anche il vostro verdetto, anche la vostra esperienza, anche la vostra precisa sensazione di quando inizierete a invecchiare, se è lontano da voi questo traguardo, di quando, se ve lo ricordate, se la mente ancora vi permette di avere dei ricordi, vi siete resi conto che per voi iniziava la vecchiaia. Chi appare vecchio è come se portasse sulla carne le stigmate di un suo vizio. Guarda quello come è invecchiato male. In espressioni del genere si coglie il disprezzo per la persona che non ha fatto nulla per nascondere i suoi anni. Dire vecchi suona male, è quasi un insulto, un profondo segno di inciviltà. Guai a pronunciare in maniera così esplicita il sintomo con cui la natura ci scrive addosso il conto del tempo che se n'è andato. Terza età già è meglio, anni d'argento ancor di più, se all'eufemismo si vuole aggiungere un additivo poetico. Diventare vecchi nel mondo antico era quasi una rarità e perciò i pochi che ci arrivavano erano degni di attenzione e venerazione. Oggi assistiamo a un inesorabile esorcismo nei confronti della decadenza fisica. Quasi si trattasse di una vergognosa malattia, con il risultato di avere generato una nuova specie mutante, dedita alla conservazione di un fantasmatico aspetto giovanile. Vi siete mai resi conto anche voi? Sentite la voce arrochita come se fossi improvvisamente invecchiato, ma questi sono i colpi di coda so io per cosa, quindi me ne prendo carico, ma forse questo è già un sintomo, che non posso più permettermi nottate brave con il margarita in mano, o forse nemmeno io, come tanti altri cinquantenni, si rassegnano ad avere già un piede nell'età avanzata, si rassegnano al fatto che ormai dobbiamo considerarci vecchi. Ma c'è un terrificante esorcismo nei confronti di questa parola, non si pronuncia mai e viene appunto classificata come quelle patologie di cui ci si debba vergognare, quei mali che vanno tenuti nascosti, vanno coperti, non vanno fatti vedere. Nicola, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Lei ha 37 anni. 37. Sì. E quindi già comincia a sentirsi la vecchiaia che la ghermisce. Tremenda, tremenda. La mattina mi sveglio, mi guardo allo specchio, vedo sta pancia orribile, dico... Beh, non basterebbe mangiare un po' meno, no? Sì, è vero, l'idea sarebbe quella, però quando mi metto a sedere a tavola me lo scordo. Ma è brutto dirlo e non lo dirò fino alla fine, è un motto terrificante, la mia terra barbara e crudele, ma è il cosiddetto mal dell'agnello a cui dovrebbe guardarsi bene se le cresce troppo la pancia. Quindi io mi guarderei da questa cosa qui. Ma perché crescere la pancia l'associa a una decadenza anche, che ne so, della sua percezione, della sua lucidità? Perché la pancia equivale alla vecchiaia? Potrebbe essere un panciuto signore giovane, no? Diciamo che è una maniera simpatica di vedermi, però purtroppo quando mi sveglio la mattina abbiamo una bimba piccola che ha 14 mesi e magari si sveglia due volte di notte, ci guardiamo io e mia moglie e diciamo mamma mia, se eravamo più giovani forse non era così pesante svegliarsi di notte. E poi insomma la visione di questa decadenza fisica aggrava un po' la situazione, questa depressione mattutina terribile che... Ma secondo me, guardi, non so, non ho memoria di quando avevo 37 anni, sembra un'epoca così lontana. La pancia è sintomo di trascuratezza. La trascuratezza è data dal fatto non che lei si senta vecchio, ma che lei ormai non si mette più su piazza e quindi si è lasciato andare. Non vorrei darle consigli disgregatori della sua unità familiare, però magari si guardi un po' intorno, il momento in cui lei ci terrà a mostrare meno anni di quelli che ha, evidentemente per lei questa... precoce vampata di vecchiaia forse scomparirà, ma non sono io qui a dare delle formule di salvezza. Paolo? Sì, ecco, buongiorno. Quando oggi comincia la vecchiaia? Ma secondo me comincia esattamente quando una persona a qualsiasi età perde la prospettiva, cioè perde la prospettiva di fare qualcosa nel suo futuro, che praticamente vive agganciato esclusivamente ai ricordi, al passato e non sta nel presente e soprattutto non vede nulla davanti a sé. Ma allora sono le circostanze ambientali che ci invecchiano. Uno perde il lavoro e improvvisamente si sente vecchio, anche se ha 20 anni. Cioè, infatti, esattamente. Quindi, diciamo, la vecchiaia è più che altro una condizione mentale. Poi, certo, c'è una vecchiaia fisica, ma quella inizia, ad esempio, i nostri neuroni, cioè le cellule cerebrali, iniziano a morire a, mi pare, a 10 anni di età. Quindi cominciamo a rincoglionirci appena nati, ma lo dice anche Quevedo, lo dicono tantissimi filosofi e pensatori che in realtà i pannolini del neonato equivalgono alle bende del sudario del cadavere, quindi culla e bara sono uno stesso passaggio, quindi noi cominciamo a morire quando nasciamo, quindi cominciamo a invecchiare naturalmente il momento che vediamo la luce. Però al di là di queste letture filosofiche, fantastiche e riflessive, mi sembra giusto quello che dica lei. Uno comincia a sentirsi vecchio non tanto più per sintomi fisici che siamo abituati ad attenuarli, a venire incontro, abbiamo una grande cura di noi stessi, del nostro corpo, e quindi non è più quel piccolo segnale che ci dà il segno della vecchiaia, ma è magari il senso di rifiuto che ha la società nei nostri confronti. Cominciamo a essere vecchi quando non siamo più sul mercato, qualcosa del genere, vuol dire lei? Certamente, perché diciamo, se noi manteniamo una prospettiva, ovvero sia un senso del futuro, ovvero sia il fatto che noi abbiamo ancora qualcosa da fare per noi stessi o per gli altri, abbiamo ancora uno scopo, abbiamo ancora un programma, un progetto, allora quello non si invecchia mai, anche perché la mente, questo è un altro aspetto ancora, ha un potere enorme sulla parte fisica del corpo umano, quindi guardate quante persone si mantengono in perfetta forma perché hanno davanti a sé una strada da percorrere anche a sì, età... Oddio, se la mente riuscisse a far funzionare tutte le parti del corpo umano quando l'età le prova fortemente, vedremmo vecchietti correre a 100 all'ora come se niente fosse, li vedremmo dritti, e la mente sì, fino a un certo punto è bello anche questo dirlo, sono le cose che si dicono, ma in realtà molte volte il corpo fa sentire il suo peso e ha il sopravvento sulla nostra possibilità di dominarlo, di contenerlo, perlomeno di regolarlo. Grazie, e passiamo al primo ospite di questa mattina, che è il professor Giuseppe Micheli. Professore, buongiorno. Buondì. Professor Micheli insegna demografia all'Università Milano Bicocca. Ha scritto Sempre giovani e mai vecchi, nelle nuove stagioni della dipendenza, nelle trasformazioni demografiche in corso, edizioni Franco Angeli. Le ho dato modo di ascoltare la prima reazione del nostro pubblico. Questa è una domanda estemporanea, come, quando, perché e soprattutto quali sono i sintomi della vecchiaia. Rispetto a una percezione generale del diventare vecchi, quali sono le sue prime osservazioni, professore? Intanto in italiano si usa, cioè, esiste solo questo verbo, invecchiare. Mentre il vantaggio, io non ne valuto moltissimi di vantaggi, ma certamente in questo caso il vantaggio della lingua inglese è che ha questa parola apparentemente neutra, aging, che vuol dire passare lungo il corso dell'età, mentre il diventare vecchi è un'altra espressione. È un termine che noi usiamo associato alle cremine che si usano per mantenere la pelle fresca. Sì, tant'è vero che però che Nicola e gli altri che hanno parlato prima parlavano di una percezione dell'invecchiamento a 37 anni o a 30 e così via. Io ho dei figli che stanno varcando la soglia dei 30 anni, perché io sono un po' più vecchio di loro, e sentono questo passaggio molto importante, cioè la percezione del passaggio, da una parte. Dall'altra, l'invecchiamento, più in senso stretto, prendere atto del fatto di una situazione, cioè non soltanto di una percezione, ma la situazione che i pezzettini, i mattoni, come diceva un bravo gerontologo anni fa, i mattoncini del corpo cominciano uno dopo l'altro un pochino a smuoversi, a cadere, a dover essere cambiati e così via, e quindi si riduce, quella allora è la vecchiaia come una volta era intesa, il momento in cui, come dire, i mattoncini del corpo cominciano ad allentarsi, a cadere, si riduce il raggio dell'azione della vita, non si riesce più ad andare in viaggio lontano, si riduce il campo a uno spazio sempre più ristretto e il corpo in qualche modo comincia. Ma lei vede veramente, professore, ancora il corpo centrale in questa percezione dell'invecchiamento? O, come diceva l'ascoltatore, molte volte il senso dell'autonomia, il senso dell'uscire da un sistema dal quale siamo dipendenti, dell'essere accettati dal mondo del lavoro, sono circostanze che ci possono fare invecchiare precocemente o tenerci in vita in maniera esasperata. Noi abbiamo una classe politica vecchissima, una classe dirigente vecchissima. Sono fortunati che restano giovani imponendo la loro presenza nei posti che contano, probabilmente. Certo, ma appunto apposta io sono ritornato a Nicola e agli altri che percepivano una sensazione di invecchiamento già a 30 anni. Si tende a far sovrapporre l'invecchiare con la soglia del pensionamento. Oggi il pensionamento è a volte anticipato, a volte non si arriva nemmeno. Si continua a pensare che i 60 anni, 65 anni, 70 anni siano la soglia dell'invecchiare. Ecco, da lì fino a 80 anni ormai il problema è effettivamente un problema di mantenere un forte significato della propria vita, anche se finisce come dire, il tran tran quotidiano di andare in ufficio e tornare, il problema è quello di continuare a essere radicati in questa fase. Ciò nonostante, il problema fisico, corporeo, comincia a subentrare un po' dopo, verso metà degli 80 anni. Allora a quel punto sì, il problema è ancora una volta naturale, ed è lo stesso problema che avevano naturalmente Seneca quando parlava di invecchiamento, quando dopo una certa soglia si rincoglionisce un po' e diminuisce l'abilità. Quindi c'è una fase che noi chiamiamo di vecchiaia che non è vecchiaia, è in cui c'è soltanto una percezione legata alla costruzione sociale che fa fatica ad adattarsi. Ci fermiamo un secondo, professore, dobbiamo dare la linea alle informazioni dalla borsa. Mi sembra fondamentale questa sottile differenza, soprattutto questa sfumatura lenta della nostra irreversibile vecchiaia, in cui saremo, come dice anche il professore, rincoglioniti, ma nemmeno più capaci di percepire questo nostro non essere più all'altezza. Melog 2.0. Per esperienza diretta ho capito che invecchia solo chi vuole invecchiare. Io ho trovato una libertà incredibile nell'invecchiamento, specialmente segnata dall'attimo in cui ho deciso di non tingermi più i capelli e quindi di vivere il mio diventare bianca. Io mi sono sentito vecchio a 23 anni, poi clamorosamente a 26-27 mi sono risentito giovane. E adesso che ne ho 41 mi sto risentendo vecchio nuovamente, non so il futuro cosa mi prospetterà. Ecco, ci stiamo cominciando a definire una linea totalmente soggettiva, non è uguale per tutti, poi possiamo trovare delle aree di aderenza al concetto di invecchiamento. Ma mi rendo conto, e questa è una scoperta che dà grande allegria, quindi possiamo quasi dire per paradosso che non esiste la vecchiaia, visto che per tutti inizia in maniera diversa. Fabrizio Intonti mi fa un gesto come dire cosa vai dicendo, ma accollarsi sul paradosso e sulle follie molte volte può essere un importante e utile viatico anche per chi ci ascolta. Giovanna, buongiorno. Buongiorno Luca. Lei è sentita vecchia a 40 anni. Ma che? Io penso che uno non si deve mai sentire vecchio. Adesso ne ha 80? No, no, io ne ho 64, ah. Ho due nipotini, però ho tanta voglia di vivere, sembro una ragazzina perché proprio perché ho voglia di vivere. Ma cos'è che l'ha riattizzata dopo i 60 no, anni? No, niente Gianluca, tutti nella vita si passano tanti momenti di negativi, diciamo, per dispiaceri, per tutto, però io ho sempre avuto questo input che anche quando non mi sono mai sentita vecchia e di conseguenza non mi sento vecchia neanche adesso perché ho 64 anni nonostante abbia i miei nipotini. Però scusi, noi ci illudiamo, guardi, mica perché ormai faccio parte anch'io della grigia schiera. Appunto, lei non si deve sentire vecchio, eh? No, ma io figuriamoci. No, non mi ci sento. è nel fiore. Sì, vabbè, ok, giusto. Cosa fa definire l'eterna giovinezza, questo esorcismo che ci rinfacciamo l'un l'altro e ci rincuriamo, con cui ci rincuriamo l'un l'altro? Onestamente dopo i 45 anni non si comincia a essere più tanto giovani, almeno così, per ordine naturale si entra in un'età in cui ci sarebbe più rivolgere alla riflessione, al passaggio dell'esperienza, invece noi ricominciamo sempre da capo. Sì. Ma è bello così, perché almeno una vita ha valore di viverla. Cioè, se uno ha 45 anni, nonostante passi tante cose nella vita, si passa gli spostamenti di lavoro da una città all'altra, l'inserimento e qui e là, però io ho passato tutte queste cose, ho passato il grosso dispiacere di mio marito, però sono sempre stata combattiva, sono sempre stata che mi piace stare nella gente, mi piace tutto, per cui cioè, secondo me è un temperamento già Luca, di carattere che anche adesso che ho 64 anni io non me li sento, mi sembra sono un fregoli, si dice in Toscana, perché non sto mai ferma, perché vado a correre, perché vado a ballare, perché vado a ginnastica, perché fa parte del mio per fortuna essere. Si è fermata allora, nell'elencare le sue attività fisiche come no per fortuna ha fermato le sue attività fisiche, oltre la linea della decenza non si va, giustamente. Quelle piccole cose che intanto fanno mantenere, diciamo, una salute un po' più equilibrante, equilibrata. Di conseguenza portano anche, insomma, vigore, energia. Beh, diciamo che la vera cifra della giovinezza è lo squilibrio. Noi siamo giovani finché riusciamo a essere squilibrati. Quando acquisiamo l'equilibrio comincia l'età della maturità. Allora io sono squilibrata, Gianluca? Eh beh, è una domanda. Allora mi va bene, perché perfetto. Se sono squilibrata e praticamente il mio fisico mi reagisce bene, la salute mi tiene. Guardi, ho non lo voglia dico di vivere. Non lo dico con senso di colpa, ho iniziato questa trasmissione parlando di una notte brava passata con amici davanti al Margarita alla mia bella età, quindi figuriamoci se lo squilibrio per me è un limite. Ma sentiamo il professor Micheli che abbiamo interrotto all'inizio come prima parte. Professor Giuseppe Micheli, ecco, questa possibilità di concedersi anche lo squilibrio è uno dei sintomi che la vecchiaia può essere ben contenuta o ben combattuta? Sì, certo. Ma per esempio, Vede, nelle piccole cose, una delle cose che crea equilibrio e quindi fa invecchiare anche precocemente è il fatto di essere chiamato professor Giuseppe Michele, capisce? Anche come dire mica la posso chiamare Peppino, io se vuole ce la chiamo. È delle piccole cose e nelle attribuzioni di identità, ecco, che finisce una persona per essere intrappolata. Beh, io mi sono cominciato, guardi, a meravigliare quando mi davano del lei, e la prima volta mi danno del lei, me l'hanno data quando ho fatto il soldato, perché era passata da poco una legge in cui non potevano essere presi a calci nel sedere le reclute, e quindi anche il caporale, se ti faceva fare le flessioni, ti dava del lei. Lei faccia 50 pompate. Mi sono sentito grande per la prima volta. Capisco bene il passaggio del lei, e ancora oggi a volte mi capita, no, adesso no, da qualche anno no, ma prima mi capitava e sentimi dire che cosa vuoi, così via. A una persona che è molto tiene molto al ruolo può fare dispiacere, ad altri invece può fare piacere, perché è legato a quello squilibrio. Lo squilibrio, la parola squilibrio, ho visto che l'ascoltatrice è rimasta un momentino perplessa, è il fatto che si diviene e si continua a divenire. Finché si diviene va bene. Vuol dire che ancora siamo abbastanza vivi. Si diviene va bene. Ecco, le posso far capire dov'è che nasce, secondo me, l'equivoco sul fatto che si continui a pensare che tra i 60 e i 75, 80 anni si sia vecchi? Nasce dal fatto che si è cominciato a ragionare di nuovo, ho capito che se ne occupava Cicerone e così via, ma se ne è cominciato a occupare di nuovo negli anni 60-70 da studiosi molto bravi, intelligenti, e quei vecchi di allora, i sessantenni di allora, erano le persone che erano nate, come dire, nello scampolo dell'Ottocento, e che avevano vissuto attraverso i loro figli il passaggio in città, il cambiamento epocale, l'inurbamento, da una vita rurale, da una scolarizzazione molto bassa a una società non più centrata sulla azienda, famiglia dei campi, ma su una struttura completamente diversa. Oggi si dice, ma anche oggi l'anziano non capisce di internet e così via, ma è uno squilibrio assolutamente recuperato. A parte che io penso, per l'esperienza che ho, che sia meno vero di quanto venga proclamato, perché chiunque lavora, chiunque ha anche una vita minima di relazioni, ormai questi strumenti li usa abbastanza facilmente. Assolutamente, oggi sì, ma anche le prime coorti di anziani arrivati a 70 anni qualche anno fa hanno qualche problema. Ma, no, la cosa tristerrima oggi è che diversi da quelli degli anni 60. La generazione dei vecchi oggi comincia a essere quelli che dicono abbiamo fatto il 68, che in fondo è una tranche omogenea rispetto alla vita che viviamo, non c'è questo salto grossissimo di cui lei parlava prima. Sì. Era il ricordo di una civiltà che noi oggi leggiamo soltanto sui libri. Pensa, quel signore ha vissuto in campagna, ha vissuto una vita agreste, rurale, quindi sembrava che appartenesse a un'altra generazione. No, veniva effettivamente emarginato il vecchio pater familias che veniva a abitare in città con i figli, ma era assolutamente fuori dalle nuove tecnologie e così via. Oggi chi ha fatto il 68, e lo diceva anche lei, sono i giovani che aspettano di andare al potere. Diciamo che la maggior parte dei direttori dei giornali, delle persone che hanno posti chiave, sono i 50-60enni quelli che dicono che hanno fatto il 60. Io ne ho 54 e nel 68 ancora pensavo andare a fare il motocross col mio motorino, quindi penso che chi ha 60 anni è la generazione molto vincente, molto presente nei posti chiave dell'economia, della società. Per questo motivo avrà, come dire, un invecchiamento, se per invecchiamento intendiamo questa fascia tra i 60 e gli 80, più agevolato, perché ha comunque un'identità, ha una memoria che comunque continua a essere vincente, e di Riffo, di Raffa, continuerà a persistere nel tempo, oltre a essere acculturato. Acculturato vuol dire anche semplicemente aver fatto le scuole oltre l'elementare, che è una bella differenza rispetto a quello che succedeva una volta. Mentre gli ottantenni di oggi, oltre a essere entrati, perché continua a insistere sugli ottantenni? Perché sono tanti. Ecco, ma noi siamo pronti al fatto che fra non molti anni saremo quanto? 20 milioni di anziani? Cosa faremo? Allora, sarà un grande circolo delle bocce? Ma chi sono questi anziani? Perché gli anziani non sono i sessantenni e i settantenni. Allora, le do un dato così un po' aneddotico. Oggi i centenari sono poco più di 10.000. Sì, 12.000 siamo. Io sono nato nel 48 e quindi, appunto, come dice. Sono andato a vedere quanti saranno, in base alle estrapolazioni Istat, i centenari nel 2048. E quanti saranno più o meno? 100.000. E ho avuto questa sensazione angosciante che mentre il centenario di oggi è coccolato, magari rincitrullito, ma è coccolato, è poco rincitrullito, è molto coccolato da, come dire, una società che l'accudisce, da una società ristretta, la famiglia e così via. Quando saremo 100.000, lei ha in mente la spiaggia di Rimini ad agosto? Ecco. Sarà tutto un catetere e un lettino ben coperto perché non si brucino al sole. Sì, cambieranno completamente le strutture di accoglienza e di vita con 100.000 centenari, ma io spero di vivere abbastanza per vedere questo momento meraviglioso in cui ci saranno più centenari che bambini. Mi scrive su Facebook Simon, mi cita un articolo della Stampa del 1927, un pezzo in prima pagina, un pezzo di cronaca sul famoso smemorato di Collegno, un caso che appassionò al tempo e tuttora ci appassiona. Dice: è stato ritrovato per le strade di Collegno un uomo anziano, dell'età apparente di circa 40 anni. Quindi nel 1927 un quarantenne veniva considerato un uomo anziano. Beh, è difficile, vedete quanto è flessibile il termine della percezione dell'entrata nell'età anziana, nell'età dei vecchi. Ci diceva il professor Giuseppe Micheli, che avevamo in studio, che quando saremo tra qualche anno 100.000 centenari, come cambierà? Saranno considerati dei ragazzini gli ottantenni, novantenni di fronte al centenario che dilagherà ovunque. Mi viene anche da pensare, tutti, visto che state con grande spirito di partecipazione dando episodi ed aneddoti della vostra esistenza legati alla percezione della vecchiaia, vi dico il mio vero aneddoto di percezione di vecchiaia. È accaduto, mi sembra, 3 anni fa, quando per la prima volta in metropolitana una ragazza si è alzata per lasciarmi il posto. Ho detto: signore, vuole sedersi? L'ho guardata come, le sembro vecchio? Dice: no, ma se vuole sedersi io mi alzo volentieri. È stato un momento veramente brutto della mia vita. Nicola, buongiorno. Buongiorno, posso parlare? Lì, se vuole, se resiste. Sì, senz'altro, grazie. Dunque, io mi rifaccio a due testi, De Senectude di Seneca e L'elogio della pazzia di Erasmo. Si sbaglia quando si stabilisce la vecchiaia in base all'età. Ci sono dei giovani di 20 anni che sono molto vecchi, che non hanno... la vecchiaia invece, quando rimane ancora la vecchiaia come intesa come età, rimane ancora la capacità creativa, quel pizzico di pazzia e arricchimento. Certo, uno rinuncia a delle cose fisiche che prima poteva fare e adesso non fa, ma l'interessante è che intellettualmente, spiritualmente si è ancora creativi. Quindi è sbagliato dire che uno ha 70 anni, io ne ho 78, a 80, a 90 è vecchio. Se ha ancora capacità creative e ha quello spirito, quel pizzico di utopia e di pazzia, e spiritualmente, intellettualmente ancora giovane. Vabbè, questo è quello che ci diciamo tutti quando ci guardiamo la mattina allo specchio e cerchiamo quello spirito di vitalità che ci faccia sentire ancora giovani. Stefano Moriggi, filosofo della scienza. Buongiorno Gianluca. Ci sono delle attribuzioni su cui forse bisogna dire qualcosa senza infierire. No, vabbè, lasciamo perdere. Ma la cosa che più... Sì, no, da per non sembrare sul De Senectute, ma però sì, capisco... L'ha fatto Cicerone, non ma non volevo insistere su questo aspetto. Però il signore, qualche abbaglio l'età anziana dovrà pur darlo, quindi i vuoti di memoria sono percepibili. Però vedi che ci stiamo fermando, anche il professore che parlava prima in fondo non trascurava l'aspetto filosofico, su questo senso di estrema relativizzazione dell'età anziana, della vecchiaia. Ma è proprio vero nella storia del pensiero dell'uomo che la vecchiaia è sempre stato un concetto così elastico, relativo, o esistevano delle colonne d'Ercole che una volta passate quelle non c'erano santi, eri vecchio? Beh, certo, la vecchiaia è voluta essa stessa nella sua concezione, nel modo in cui è stata intesa di epoca in epoca. Le stesse ridefinizioni dell'età che la moderna geriatria sta appunto riqualificando, come il professore indicava prima, sono sintomo di questi cambiamenti, ma in qualche senso confermano, a mio parere, una verità, se vogliamo usare questa parola, cioè che la vecchiaia in qualche modo, nei suoi modi e nei suoi tempi, è scandita dal modo in cui il corpo ci preclude il mondo, come diceva un filosofo austriaco, cioè quell'orizzonte che è il mondo, che di opportunità, di occasioni, di relazioni, progressivamente diventa un orizzonte di ostacoli e di impossibilità. Quanto più questo passaggio avviene, tanto più il corpo, nonostante i progressi della medicina, si impone con la sua legge e rende lucida l'impossibilità che caratterizza il vecchio. Questa quindi è la drammatica lucidità che il corpo ci pone di fronte, e a quel punto emerge la triste consapevolezza, e inevitabile per molti aspetti, della vecchiaia. Professor Micheli, autore del testo per Franco Angeli, Sempre giovani e mai vecchi, quindi, come dice il filosofo Morigi, è il limite della carne impossibile che a un certo punto ci fa capire che siamo vecchi. È qualcosa di simile a quello che dicevo che si sposta a 85 anni. Infatti ha detto una cosa, la frase che ha detto è: il corpo si preclude il mondo, non che precluda, ma si preclude, cioè c'è un linguaggio interiore del corpo che dialoga con la mente. E, per capire questo, lei ha fatto riferimento allo smemorato di Collegno, che in quella citazione giornalistica, anziano e aveva 40 anni. E mi è venuto in mente che nel 1901, io non mi ricordo i dati intermedi, ma nel 1901, per esempio, la vita media di un italiano era 37 anni. Quindi era già un beneficato dalla sorte, un quarantenne. No, magari in quegli anni siamo già più avanti di un quarto di secolo, però indubbiamente la costruzione che l'individuo fa del sé è fondamentale. Però c'è una confine, una linea di confine che è quella che è data da quello che è detta, che indica il corpo. Lei ha in mente la spiaggia, ha come dire, una linea, doppia linea, quella della risacca, no? La battigia. Allora c'è una parte di terreno in cui si è sempre asciutti, una parte in cui si è sempre sotto l'acqua e una parte invece in cui si è l'uno e l'altro, ecco. E si sono spostate tutte e due le linee, quella del totalmente asciutto, che ormai appunto si è spostata molto avanti, quindi è assurdo parlare, statisticamente intendo, di persone anziane con dei problemi prima dei 70-80 anni. Poi entra in gioco il temperamento, come diceva un ascoltatore. E poi c'è invece la linea dopo del tutto in acqua, cioè la linea in cui il corpo comincia a dare i suoi messaggi, si preclude il mondo, o comunque dà segnali che lo spazio deve ridursi. Ecco, si stanno spostando tutte e due, e certamente è un po' inutile, è un po' un gioco così, inutile continuare a parlare di persone di 60-70 anni come anziani. Sono divenenti, o continuanti, come dire. Stefano Morigi, il filosofo, lascio a te proprio la conclusione. Mi fa piacere, pensando a questa coscienza transeunte che passa attraverso le successive fasi del tempo che ci è dato di vivere e che ci permettono di dilatare questo termine della decadenza. Sì, mi trovo perfettamente d'accordo con quello che diceva il professore. Il corpo, una volta di più, nell'imposizione delle sue leggi e nei suoi ritmi, è matrice di senso e significato e anche di quella lucidità che segna il confine tra un'età di relazione e un'età di impossibilità progressiva e crescente, che è la vecchiaia. Quindi coloro che si occupano del recupero delle parti difettose del corpo, della sostituzione, come dice Attali, che sarà molto più semplice che la cura, delle parti difettose degli anziani, sono coloro che permetteranno anche l'evoluzione del pensiero dell'umanità. In qualche senso sì, tu sai che io penso che noi non agiamo e non pensiamo indipendentemente dalle macchine con cui interagiamo, e all'interno di questa dialettica dovremmo costantemente ripensare le categorie che dentro cui ci comprendiamo come giovani, come potenti, e le categorie dentro cui ci ricomprenderemo sempre più come vecchi e impotenti, drammaticamente. Quindi d'oggi in poi chi ci ascolta comincia a guardare con uno sguardo grato la propria dentiera. Grazie a quel meccanismo, quel congegno che lo mantiene giovane, avrà modo di dare qualcosa in più con il suo pensiero, la sua riflessione, la sua esperienza, anche all'evoluzione del pensiero dell'umanità. Ringrazio Fabrizio Intonti e Paolo Corleoni, e l'appuntamento a domani. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog 828 1111. Melog va in replica questa sera alle 22. Melog 2.0.